Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Tarzan, film del 1999 ed è considerato il 37esimo classico Disney. La storia è tratta da un romanzo di Burroughs che si chiama Tarzan delle scimmie. Il protagonista è Tarzan, un orfano che perde i genitori naufragando nelle coste africane verso la fine dell'Ottocento. Il bimbo viene cresciuto e salvato dalla gorilla Kala, con cui vivrà nella giungla e imparerà a sottostare alle dure leggi del branco. Passano gli anni e Tarzan cresce, e a un certo punto della storia un gruppo di esploratori inglesi arrivano nelle coste africane e sconvolgono un po' la vita della fauna del posto. Parte di questo gruppo di esploratori c'è lo scienziato Porter con la figlia Jane, è un cacciatore che si chiama Clayton. Jane fa il suo primo incontro con Tarzan quando lui la soccorre e Tarzan rimane molto sorpreso dal fatto che lei è molto simile a lui e quindi scopre di essere un umano in realtà e che non era un gorilla non molto simile agli altri. Da questo momento in poi lui deciderà di stare insieme a questo gruppo di esploratori e quindi imparerà i costumi umani, imparerà a vestirsi e si allontanerà un po' dal branco di gorilla. Questa cosa sarà vista come un grande pericolo, soprattutto dal capogorilla, che dirà a Tarzan di stare lontano dagli umani. Tarzan quindi deve bilanciare questo suo affetto che prova per Jane con la difficoltà che hanno i gorilla nei confronti degli umani. A un certo punto però Clayton, il cacciatore, che essendo un bracconiere voleva fondamentalmente attaccare i gorilla, convince Tarzan di introdurli al suo branco. Ma durante questo incontro il capo dei gorilla li attacca. Tarzan è sconvolto da questo comportamento e quindi decide di partire insieme al gruppo degli esploratori per tornare in Inghilterra. Kala però, che era sua madre fondamentalmente, gli fa un discorso e inizia a dirgli che comunque la famiglia non era basata sulla razza ma sull'amore e quindi lui capisce che il branco era comunque la sua famiglia e non poteva scappare. In tutto questo però Clayton decide ancora di attaccare il branco dei gorilla con dei bracconieri e Tarzan quindi decide di andarli a salvare. Ucciderà Clayton e insieme alla famiglia Porter deciderà di vivere nella giungla insieme ai gorilla. Il film è considerato uno degli ultimi film del rinascimento Disney che andava dal 1989 fino al 1999 che è durato quindi 10 anni. Ed è anche uno dei più famosi e che sicuramente ha avuto ottimi incassi, forse i migliori incassi all'interno dei film del rinascimento Disney. Lo stile è molto semplice, molto iconico, però anche molto interessante, tuttora viene ricordato, insomma quando vediamo Tarzan capiamo subito la silhouette, capiamo subito le animazioni e i gorilla sono stati resi molto realisticamente però senza distanziarsi dallo stile della Disney. Inoltre interessante è il fatto che la colonna sonora non è quasi mai cantata dai personaggi, ma è semplicemente come sottofondo, come in un film. E tra l'altro è stata composta da Phil Collins. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.